Linee d'ombra di Matteo Caccia. Linee d'ombra è il programma che tutti i giorni, dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, vi racconta una storia che ha a che fare con un confine, con il varcare un confine. Ve ne raccontiamo diverse in realtà in ogni puntata. E in ogni puntata chiudiamo con una storia seriale, cioè con una storia a episodi che va avanti delle volte per uno o due mesi. In questo caso è stata una storia più breve delle altre. È stata una storia che è durata 3 settimane e che vi raccontiamo in questa piccola versione di mezz'ora del sabato sera. Vi raccontiamo tutte e 5 gli episodi che sono andati in onda nella scorsa settimana. È la storia di Irene. Se non la conoscete, ve la racconto molto brevemente. Irene è sposata, hanno un figlio di 8 anni, lei e suo marito, e soprattutto lei, nonostante i suoi 48 anni, è incinta di 5-6 mesi. Un bel giorno, a febbraio, cominciano ad avere dei sintomi da malattia influenzale respiratoria e boom, appare il Covid. Sono malati, entrambi. Il figlio va dalla sorella, lei però è incinta. Sono a casa lei e il marito comincia a peggiorare, comincia a stare molto male e un giorno, finalmente, grazie all'aiuto di un medico, riescono a trovare un'ambulanza che lo porti in ospedale. E quando arrivi in ospedale, dopo tutti i tentativi che avevano fatto, i medici dicono lei doveva farsi ricoverare prima. Ma tant'è, non è per polemica quello che stiamo raccontando. Quindi il marito rimane in ospedale, lei rimane a casa, ma anche lei l'ha preso e comincia a stare male. Anche lei riesce ad andare in ospedale, lentamente le cose migliorano, addirittura i due vengono messi nell'ospedale di Firenze in una stanza insieme e poi tornano a casa. Questi 5 episodi, questi 5 pezzi di storia che vi stiamo raccontando raccontano questo, il ritorno a casa e le difficoltà che trovano anche arrivati a casa. Non voglio fare nessun proclama e non so se dopo la pandemia da Covid il mondo cambierà davvero come si sente spesso dire. Quello credo non si possa sapere oggi, ma lo si saprà soltanto dopo, quando vedremo con un po' di distanza questo tempo. Quello che so è che io non sono più la stessa di prima. Non so spiegare benissimo cosa voglio dire, ma quando ero in ospedale, isolata, con l'unica compagnia saltuaria di persone che non solo non conoscevo, ma a cui nemmeno potevo dare un volto, e pensavo che Francesco stava molto male, che mio figlio Giovanni era lontano e soffriva, che io ero incinta, anche se per fortuna il bambino in pancia si muoveva in continuazione, l'ho sempre sentito e questo era positivo, però sono stati giorni, non so spiegare benissimo, ma so che grazie a questa esperienza oggi vedo le cose da un'altra prospettiva. Solo per rientrare in casa eravamo distrutti, solo per fare la rampa di scale, però insomma, chiaramente mondo è cambiato, vita nuova, è cambiato tutto. Io adesso vedo Francesco, vedo mio figlio Giovanni al telefono, vedo che stanno bene e penso che si farà. Ci saranno problemi con il lavoro, l'azienda dove lavoro io è chiusa, dove lavoro Francesco è chiusa per metà. Si prevedono tempi difficili, però si starà a vedere e a vivere la giornata. Prima non te l'avrei mai detto queste cose, ecco, di stare a vedere la giornata, di non so come dirti, cioè io vedo loro e sono contenta e dico vabbè, in qualche modo ora speriamo stia bene anche questo qui dentro e affrontiamo una cosa alla volta. Però ecco, tutte le mie strutture ho sempre cercato di programmare, io sono fatta un po' così, di parte poi mi sono andati sempre spesso male i programmi, quindi non è neanche che fossi una gran programmatrice, però insomma diciamo di carattere avrei bisogno di certezze, no? Di sapere che oggi succede questo, domani succede quello, domani l'altro, di pianificare insomma un po' delle situazioni, invece insomma mi sento cambiata nel, diciamo, nel mio carattere, ecco, nelle aspettative e anche nella valutazione delle situazioni. Too late to figure out how to separate. I still could get comfortable if you only let me know what's on your mind. Know what is on your mind. Body language gets old with time. You

Grazie davvero Irene, è stato insomma un piacere sentire la tua storia, abbiamo un pochettino sofferto tutti quanti con voi ed è un piacere veramente sapere che state bene. Facci sapere come lo chiamate allora. Vabbè, magari mandaci una storia. In bocca al lupo Irene. Grazie mille, a presto. Ciao. Insomma, grazie davvero a Irene per avercela raccontata nei dettagli questa storia. Grazie a Mauro Pescio per averla raccolta, grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci e a scriverci. Se avete voglia di riascoltare le nostre storie seriali, andate sul nostro sito Linee d'Ombra, sul sito di Radio 24 e le trovate tutto. Altrimenti scaricatevi i podcast o ascoltateci ogni giorno da lunedì al venerdì alle 15 su Radio 24, perché raccontare storie rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!